Il punto di Stefano Folli. Le dimissioni opportune del sottosegretario Gentile evitano a Renzi di annegare in un bicchiere d'acqua velenosa, ma di sicuro l'episodio non ha fatto bene all'immagine del governo, anzi l'intera vicenda dei sottosegretari, dal loro numero ad alcuni dei nomi presentati, contrasta con l'idea del ministero fresco e giovane, sganciato dai vecchi riti che il premier voleva trasmettere. Inoltre il caso Gentile lascia una ferita nei rapporti con Alfano che renderà più difficile la gestione di alcuni dossier politici. In primo luogo la questione decisiva della riforma elettorale, dove non è agevole per Renzi tener fede al patto con Berlusconi proprio per la resistenza dei centristi. Le leggi della politica, sia pure di una discutibile politica, si stanno prendendo alla loro rivincita. E meno male per il Presidente del Consiglio che elogia di egocentrismo in cui sembra affondare Beppe Grillo, ora in urto anche con il sindaco di Parma, lo aiuta nella navigazione, perché i sondaggi indicano che le forze antisistema, così come crescono a valanga, possono anche perdere a valanga, sommerse dai propri stessi errori.